prendo io la palla. Allora, come diceva Loris, diciamo, questo input di cui parliamo stasera in realtà nasce da una curiosità, un desiderio un po' di approfondire quello che stava succedendo quest'estate negli Stati Uniti dopo l'uccisione di un giovane ragazzo nero disarmato per strada, cosa che aveva suscitato una fortissima reazione della comunità afroamericana. Episodi come quello che si è verificato a Ferguson quest'estate, che si era verificato qualche mese prima a New York nel caso di Eric Garner, che si ripeteva da anni negli Stati Uniti, da decenni, come un dato piuttosto strutturale e ben consolidato all'interno della società. Ci siamo un po' chiesti che cosa fosse cambiato rispetto a cosa avesse realmente prodotto quella reazione, visto che episodi di questo tipo erano, se non all'ordine del giorno, quasi negli Stati Uniti. Così abbiamo provato un po' a fare una discussione a più voci con compagni che vivevano negli Stati Uniti, abbiamo provato un po' a mettere sul tavolo alcune delle domande che ci stavamo facendo, e quello che è venuto fuori era così ricco come materiale che appunto si è pensato di tenere insieme, perché in qualche modo si può leggere attraverso l'episodio di Ferguson che è narrato in questo libro una dinamica in qualche modo più complessiva di quelle che sono le relazioni razziali oggi negli Stati Uniti. Stati Uniti che hanno da quasi 8 anni ormai, da 6 anni ormai, un presidente nero, cosa che aveva prodotto moltissime aspettative all'interno della società americana, tanto da parte dei bianchi che in qualche modo sentivano quasi la possibilità di lavarsi quell'ombra del razzismo, di una storia di razzismo che è parte integrante della realtà americana, quanto da parte dei neri che invece vedevano nella possibilità di un presidente nero una dimensione di riscatto all'interno probabilmente di quello che era l'idea di un sogno americano per cui c'è la possibilità per tutti di raggiungere dei risultati anche piuttosto significativi. Anche un nero può arrivare ad essere presidente degli Stati Uniti all'interno di quel grande progetto di libertà che è un po', diciamo, la narrazione più complessiva della storia americana. Questa cosa è completamente svelata, è completamente sfatata oggi. La retorica dell'America post-razziale che è stata inaugurata dalla stagione di Obama sta praticamente bruciando per le strade di Ferguson e delle altre città che stanno comunque rispondendo in modo deciso, radicale, alle violenze della polizia, che sono violenze ripetute, come dicevo, che sono violenze molto, molto radicate. Cioè, la possibilità che un giovane ragazzo nero finisca morto ammazzato dalla polizia o passi il resto della sua vita in galera sono altissime, cioè più del 30, oltre il 30% di possibilità che un giovane di 20 anni afroamericano finisca stecchito per strada da un poliziotto così in vena un po' di esercitare una sua anche una dimensione di superiorità e insomma, quindi diciamo, c'è una dimensione anche di particolare pesantezza all'interno dell'esistenza, quello che Loris chiamava i processi di razzializzazione che incrociano l'esperienza della razza e l'esperienza della classe sono assolutamente messi a nudo per esempio quando i tanto deprecati attacchi alla proprietà privata, che negli Stati Uniti è una roba piuttosto sacra, cioè questa sacralità del rispetto della proprietà, vengono, diciamo, attraverso quell'esperienza lì, attraverso i saccheggi, c'è in qualche modo una volontà anche di riscatto, di rovesciare, di riappropriarsi, di praticare in senso inverso, diametralmente opposto, quella violenza che viene vissuta anche in termini di proprietà, perché negli Stati Uniti la proprietà è bianca. Quando abbiamo visto le immagini della città di Ferguson con la polizia schierata, polizia bianca schierata a difesa dei grandi centri commerciali, mentre dall'altra parte ci stava tutta un'altra composizione, lì la linea del colore e il rapporto della linea del colore rispetto alla proprietà e rispetto dunque alla classe veniva in qualche modo così, appariva con estrema chiarezza. Ora, ci sono diverse questioni che possono essere affrontate quando parliamo di quello che è successo a partire da Ferguson. Quella che accennavo, questa spinta di rottura, di insorgenza molto forte, che comunque è una novità, perché sicuramente ci ricordiamo nel 92 quando era esplosa Los Angeles, però questo non vuol dire che dal 92 al 2014 non è successo niente. Ci sono dentro quasi 20 anni in cui queste esperienze si sono continuate a ripetere. Quindi cosa si è prodotto in termini di produzione e soggettività, se la vogliamo mettere con parole un po' sofisticate, che ha spinto, che spinge oggi a riot che stiamo assistendo. C'è tutto un discorso che ha molto a che fare con il ruolo della polizia e come storicamente la polizia ha avuto negli Stati Uniti una funzione di fortissimo controllo proprio delle relazioni razziali, che sono relazioni di classe, ripeto, ma che ha avuto un preciso ruolo costituire una sottoclasse sociale, una frangia di società, di forza lavoro potenzialmente dequalificata, che è una tradizione storica consolidata di cui si può ricostruire la genealogia a partire da la fine della guerra civile spagnola, con la fine della schiavitù, con l'esperienza delle prime esperienze di liberazione degli schiavi, le prime esperienze di proprietà, insomma, c'è tutta una storia molto, molto, molto complessa. Poi c'è sicuramente quindi il ruolo della polizia, questo discorso sulla militarizzazione della polizia contemporanea, che però forse è soltanto uno degli aspetti da considerare dentro questa tradizione storica più complessiva del ruolo della polizia all'interno delle dinamiche della società americana. Io direi che, visto che abbiamo qui Didier, forse possiamo approfondire un altro aspetto che forse più specifico, o quantomeno cominciare ad approfondire un altro aspetto più specifico, cioè del come funziona la legge rispetto a un contesto sociale e razziale di questo tipo, come funziona la legge anche storicamente, che supporto dà il diritto ai processi di razzializzazione che hanno storicamente segnato la storia degli Stati Uniti e che oggi invece ci producono questo spaccato che, insomma,